Io sono appunto all'incrocio tra Corso Buenos Aires e Corso Torino. Il corteo qui è fermo, viene impedito di avanzare. La polizia vuole mandarlo all'indietro. Scusa Giorgini, mi puoi ripetere? Non ho capito bene chi la polizia vuole rimandare indietro. Noi, la testa del corteo. La testa del corteo. Sì, non vuole farlo muovere da qui e ha invitato a sciogliersi e andare alla spicciolata a Piazzale Kennedy. Ovviamente il Genoa Social Forum si è rifiutato, è partita una delegazione per discutere con la polizia che sta dritto davanti a noi e questa delegazione è ancora tornata. Il fumo della Cremogeni che in questo momento ha letteralmente riempito Piazza Rospetti, per cui c'è un fuggi-fuggi generale, per cui si mescola il fumo bianco della Cremogeni a questo nero dell'auto che sta bruciando. In più iniziano a bruciare i cassonetti, è difficile capire in questo momento chi è qui, sicuramente il grosso sta defluendo. Prima ho visto un gruppo di quelli che noi chiamiamo blocco nero. Ogni tanto si picchiano anche tra loro perché alcuni vogliono azioni molto più dure, altri invece cercano di convincere ad andare, ma dura pochissimo. C'è il gruppo di 100-150 che sta sostenendo gli scontri e questo migliaio che continua a stare molto vicino, a guardare, a gridare assassini alla polizia. Quindi allo stato attuale noi abbiamo una enorme testa del corteo, una grande parte del corteo davanti che sta procedendo, è un corteo molto grande e pacifico, una coda altrettanto grande e pacifica che sta avanzando e poi una parte, al di là di quelli che sono proprio in prossimità del punto in cui è venuta la rottura del corteo e che invece si sono fermati. Questa è la situazione. Gli organizzatori del corteo allo stato attuale, tranne quelli che sono prossimi alla rottura e che hanno tentato anche di cercare di ricucire il corteo, al momento non hanno fermato la marcia della testa e quindi questa grande parte del corteo prosegue. Io sono in testa, Agnoletto sta cercando di negoziare il passaggio del corteo, sembra che sia stato ottenuto il fatto di passare, che sia stato ottenuto che se ne vadano, che lascino la strada libera. Sui due lati, siamo su Corso Torino, stiamo per passare sotto il sottopassaggio della ferrovia e dai due lati c'è polizia, soprattutto dal lato destro. E adesso davanti si erano schierate una trentina di camionette della polizia per bloccare la strada, per bloccare Corso Torino e poi grazie alla trattativa sembra che abbiano deciso di sgomberare e di lasciare passare il corteo. Però qui dalla testa del corteo l'atteggiamento provocatorio della polizia risulta abbastanza evidente, è quasi palpabile. Agnoletto ha chiesto di incontrare almeno un vicequestore, ha aspettato per mezz'ora mentre il corteo continuava a stringersi, a camminarsi gli uni sulle spalle degli altri, ha aspettato mezz'ora e solo adesso è arrivato qualcuno a fare da interlocutore. È stato, diciamo, un nuovo spezzoncino di corteo tranquillo che ha tagliato perpendicolarmente al mare prendendo la parallela di Corso Torino via Casa Regis, sì. E adesso svolta sulla sinistra per riprendere Corso Torino, quindi è stato un modo di far defluire un po' le persone. Filano, per esempio, è passata Emergency e Stop G8, le bandiere di Rifondazione. Hanno anticipato la curva. Esattamente. Hanno anticipato la curva di forse 100 metri. E rientrano poi su. In modo da curvare in zona più distante da quella degli scontri. Esattamente. Stiamo assistendo a una gestione della piazza di Genova, lo ha già segnalato Scaramucci da Genova, abbastanza incredibile. Le parole di Vittorio Agnoletto di pochissimi istanti fa sono significative. Temiamo di essere imbottigliati dalla polizia che ci carica da dietro e dalla polizia che ci carica davanti. Noi siamo in collegamento con il deputato dei Verdi Paolo Cento. Paolo Cento che è in diretta su Popolare Network e che pochi istanti fa ci diceva non ha mai visto niente di simile in 30 anni di attività politica. Ormai hanno perso il controllo della situazione, l'abbiamo recuperato grazie all'intelligenza di chi era in piazza. Adesso il corteo ha ripreso a camminare, stiamo lavorando in un clima di tensione forte, però il corteo ha ripreso a camminare pacificamente. Voi riuscite ad avere un qualche tipo di rapporto con i gestori della piazza e dell'ordine pubblico? Dopo che siamo andati a cercarli noi mentre ci venivano addosso per caricarci. Mentre vi venivano addosso per caricarvi? Se venivano con i blindati addosso a noi, siamo riusciti a fermarli, a interloquire, adesso se ne stanno. Abbiamo preso qualche minimo accordo che speriamo che regga. Grazie, Centro.